E piante che ci aiutano nella lotta all'inquinamento, il che è molto bello, no? Come immagine, cioè nel senso utilizziamo la natura per combattere gli scarichi dell'uomo. Poi nella realtà è un po' più complicato, anche da un punto di vista industriale. E anzi, sarebbe interessante capire poi che tipo di piante sono quelle che vengono utilizzate per la depurazione, cioè sono piante che io troverei in giardino oppure no? Tocchetto, ci dica. Comunemente nei nostri fossi, nei nostri paludi, nelle nostre rive dei fiumi. Sono piante autoctone per l'Italia, ma autoctone anche in qualsiasi altro posto del mondo vogliamo utilizzare questi sistemi galleggianti, perché non posso portare piante dall'Italia in Sudafrica o dal Sud America all'Alaska. Quindi devo sempre cercare delle piante adatte a quel clima, a quelle acque, a quelle correnti. Ecco, e che cosa riescono a ripulire però di un fiume, dell'inquinamento di un fiume? Generalmente riescono ad assorbire l'azoto, il fosforo e le componenti organiche che vengono messe a disposizione dalle comunità batteriche che si sviluppano nelle radici. Tutte le piante vivono di azoto e fosforo, quindi noi mettiamo le piante in acqua e assorbono proprio l'azoto e il fosforo che danno fonte di eutrofizzazione e inquinamento. Quindi quello che per noi è uno scarico, per le piante è una forma di alimentazione? Esattamente, esattamente. Come il mais lo conciniamo con l'azoto perché ne ha bisogno per crescere, le nostre piante crescono con l'azoto presente nei reflui e nelle acque inquinate. Ecco, nei fumetti di solito le piante mutano, cioè è una questione di comics, quindi di fantasia, però di solito c'è sempre la pianta che a contatto con l'inquinamento prende vita, muta, diventa qualcosa di diverso. No, in questo caso l'inquinante per la pianta è un alimento, perché la pianta mangia azoto nitrico, azoto ammoniacale e fosforo. E non gli succede nulla, non diventa magari più invasiva, attacca magari l'ambiente, l'uomo, come il fumè, no. No, ci mancherebbe. Poi le nostre sono confinate nel sistema galleggiante, quindi da lì non possono scappare.